1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci alle 7:18 minuti, cari ascoltatori, care ascoltatrici, dai che è il giorno dell'Italia, tutti non pensate che a questo, come organizzare le vostre giornate di lavoro per essere alle 18, è alle 18? Ah sì, è alle 18, stavo per fare una gaffa, per essere alle 18 a casa col vostro birrozzo, con i vostri panini, con i vostri amici, per seguire Italia e Uruguay. Ma c'è tempo durante la giornata per organizzarvi. Ora, cari debosciati, forza, andare a lavorare, anzi un po' prima, in modo che così recuperate un po' di ore e poi potete godervi la partita. Intanto alle 7:19 minuti vi ricordo che questo è 24 mattino, parleremo un po' di politica con Roberto Calderoli della Lega alle 8:15, tra un'ora dunque, e poi parleremo un po' di che? Di quello che è successo a Pompei, dove incredibilmente i turisti hanno trovato per un'assemblea improvvisata o annunciata, non lo so, chi se ne frega, ma comunque il concetto che hanno trovato gli scavi di Pompei, uno dei reperti, uno degli siti archeologici più prestigiosi del mondo, chiuso domenica scorsa. Questo non deve mai più accadere, assicura il ministro Franceschini. Ne parleremo con il sottosegretario ai beni culturali, Ilaria Borletti-Buitoni. Questo dalle 8:30. Allora andiamo a leggere intanto cosa ci propongono i giornali. Questo martedì 24 giugno. I titoli di Sole 24 Ore apre così: Merkel, flessibilità nel patto UE. Questo è il titolo di prima pagina, mentre per il Corriere della Sera i rilievi del Quirinale sui decreti della pubblica amministrazione che non sono ancora stati approvati, ecco i dubbi sulla riforma della pubblica amministrazione. Per Repubblica invece, qui entriamo sulla questione, una delle notizie principali, la svolta Merkel, patto europeo più flessibile. Anche per il Messaggero, più flessibilità alla svolta dell'Unione Europea. Il giornale addirittura la mette così: semi libertà dall'austerity, la Merkel scricchiola. Per La Stampa, Unione Europea flessibile, sì di Merkel. Mentre Libero ha questo titolo di prima pagina: sindaci mangia soldi. L'Unità invece: crescita, l'Europa cambia passo. E così anche il Secolo XIX, Merkel, meno rigore se fate le riforme, mentre il Fatto Quotidiano torna sulla questione dell'immunità. Ecco i due sì del governo all'immunità. Questi alcuni dei titoli di prima pagina. Intanto voglio partire ancora sulle polemiche che insistono e persistono a Roma per la vicenda del concerto dei Rolling Stones, che ha portato poi a una vera e propria discarica a cielo aperto, perché i rifiuti che sono stati lasciati, pensate, sono stati quantificati in 40 tonnellate da parte delle decine di migliaia di persone che sono andate a vedere il concerto dei Rolling Stones al Circo Massimo. Il Quotidiano Nazionale mette questo in apertura, addirittura con il commento di Andrea Cangini, che scrive: Marino, dimettiti. E la polemica è per avere concesso per 7.954 euro di affitto l'area del Circo Massimo. Certo, a vedere le foto di come è stata lasciata, anche se sono state spese 40.000 euro dagli organizzatori per rimuovere poi le 40 tonnellate di spazzatura. Ci sono le foto che davvero fanno rabbrividire un po'. Certo, ora i rifiuti voglio sperare non ci siano più. La spianata però è stata ricoperta di rifiuti, tra l'altro. C'è da dire, ci sono le solite polemiche. L'Italia è sempre così un paese dove si polemizza su tutto. Il sindaco rocker Ignazio Marino invece se ne fa un baffo di queste polemiche, viene intervistato dall'Unità. Roma, una città rock. Così l'intervista a Ignazio Marino, che trovate a pagina 17, è di ottimo umore, dice: sono felice, è stato un evento straordinario, ha portato una band che ha fatto la storia del rock dentro la storia dell'archeologia, in un luogo simbolo del mondo. Le polemiche ci sono per tutto, anche per la santificazione dei due papi, un evento perfino più complesso con 1,5 milioni di presenze in più rispetto alla popolazione residente, 5,000 pullman arrivati a Roma. L'invasione ha portato un indotto di 25 milioni. Per la prima volta si sono visti non gli italiani prendere l'aereo e andare a Londra, ma i londinesi venire a Roma. E poi eccola qui la polemica sugli 8.000 euro scarsi pagati per il Circo Massimo. Questa cosa mi ha fatto irritare già alla fine del 2013, ha risposto Marino, quando mi sono reso conto che la tariffa per il suolo pubblico e la tassa di soggiorno sono incredibilmente basse. Le giunte precedenti le hanno lasciate immodificate. È incredibile che le suite a 5 stelle dove hanno alloggiato gli Stones costino di tassa di soggiorno solo 1 euro in più di quanto si paghi per una stanza senza bagno in un albergo alla stazione Termini. E questo è il cavallo di battaglia di Marino, che ha alzato dunque le tasse di soggiorno per gli alberghi più di lusso. E comunque dice, parla anche dell'incontro con Grillo che c'è stato estemporaneo al concerto dei Rolling Stones. È stata una sorpresa, ho sentito qualcuno che mi si rivolgeva in genovese, gli ho raccontato che la rappresentanza grillina in Campidoglio è aggressiva ma leale e fa la sua opposizione nel merito. Brinda dunque Marino, se ne fa un baffo delle polemiche e esulta per il concerto dei Rolling Stones. Polemiche che invece hanno travolto, e c'è un articolo a riguardo sia sul Corriere sia su Repubblica sia sul Libero, l'ho visto, ma un po' altrove, hanno travolto il parroco di Cameri nel Novarese, Don Tarcisio Vicario. Udite, udite, cari ascoltatori, e se volete tenete anche le mani ben strette sul volante se state alla guida, perché già il titolo dice tutto. Poi il titolo un po' è stringato, il parere del vescovo è un po' più complicato, ma il titolo è questo qui: convivere è peggio che uccidere, la frase shock del parroco. Ora c'è da dire che questa frase effettivamente messa così non c'è assolutamente, ma cosa ha combinato Don Tarcisio? Appunto, la scomunica, dice e scrive il Corriere con Elvira Serra a pagina 23, la darebbe a chi convive, non solo ai mafiosi. Si potrebbe dedurre questo dalle affermazioni pubblicate sulla lettera alle famiglie, cioè il bollettino parrocchiale distribuito ai fedeli di Cameri, appunto. Chi contrae un matrimonio civile vive in una infedeltà continuativa, scrive il parroco. Non si tratta di un peccato occasionale, per esempio un omicidio, di una infedeltà per leggerezza o per abitudine che la coscienza richiama comunque al dovere di emendarsi attraverso un pentimento sincero. Insomma, chi convive fa un peccato continuo, non un peccato occasionale come un omicidio. Da qui il paragone, insomma, chi convive compie un peccato ancor più continuativo del peccato di omicidio, che è occasionale. Il paragone davvero stride e sembra clamoroso, tanto che a un certo punto fa sapere il Corriere della Sera, Don Tarcisio in questo momento si trova in Irlanda e quindi è per un pellegrinaggio, il suo cellulare risulta staccato senza interruzioni, ma certo qualche scusa affidata al vice parroco, o meglio qualche rettifica del tipo: è vero, le parole scelte sono state inopportune, sbagliate nei modi. Così fa sapere il parroco attraverso il vice parroco, e tra l'altro fa sapere il Corriere della Sera ricalcando un po' le lettere, la lettera e le parole del vescovo, che evidentemente ha voluto prendere le distanze da questo parroco. Anche per Repubblica, le coppie conviventi peggio degli assassini. Ecco, ripeto, la frase così non c'è, ma ci siamo capiti. Rimaniamo su un tema religioso, facendo semplicemente una capriola per raccontare invece quella che è una buona notizia che raccontano tutti i giornali. Pare sia davvero finita l'odissea incredibile in cui era stata coinvolta Meriam Ibrahim, sudanese cristiana condannata per questo all'impiccagione per apostasia e fustigazione per adulterio. perché si era rifiutata di convertirsi all'Islam, perché aveva deciso e ha deciso di rimanere cristiana in Sudan. Ebbene, è tornata in libertà dopo mesi di carcere, passati anche con il suo piccolo di 20 mesi e la figlioletta partorita in cella. È finito l'incubo per Maryam, sono stordita dalla felicità. Questa è la frase che dice al telefono al Corriere della Sera e questa è l'apertura del quotidiano Avvenire, che ha seguito molto da vicino questa vicenda per giorni e giorni. Maryam è libera, questo è il titolo oggi di Avvenire. La Corte d'Appello di Khartoum ha annullato la condanna a morte della donna per apostasia. C'è anche un editoriale del direttore Marco Tarquinio, è un piccolo commento in prima pagina di Avvenire. Il titolo è «Bisogna sperare e fare di più». Scrive Tarquinio: «Non era scontato che accadesse, invece è accaduto. Maryam vivrà, perché c'è stato un giudice a Khartoum e perché tanta gente, persone semplici, operatori umanitari, uomini di legge, politici importanti, è stata capace di mettersi al suo fianco, con la parola, la preghiera, l'impegno. Maryam vivrà e vivrà da donna libera, da cristiana sudanese sollevata dal peso di un'assurda condanna a morte per apostasia dell'Islam, da sposa restituita al proprio sposo, da madre certa di non vedersi strappati i figli. Maryam vivrà. Sappiamo bene che per lei, come per tutti coloro che sono perseguitati a causa della fede che nutrono e che non smettono neanche davanti alle minacce più terribili, niente è ora più facile, ma il mondo oggi è un posto un po' migliore e un più giusto. Possiamo essere felici di questo, dobbiamo sperare e fare di più». Questo il commento in prima pagina di Marco Tarquinio, Avvenire, che dedica una intera pagina, pagina 5, poi a questa vicenda. Allora, dopo la pubblicità ripartiremo dalle notizie politiche. Certamente in primo piano c'è ancora il dibattito sull'immunità per il nuovo Senato, il Senato della Riforma, e poi anche Angela Merkel, che si è un pochino ammorbidita sulla questione dell'austerità. Alessandro Milan, il cavaliere inesistente dell'informazione. E va bene, allora, come detto, c'è una maggiore flessibilità, questa garantita da Angela Merkel, che ora fa gli occhietti dolci a Matteo Renzi. E c'è da dire che gli occhietti dolci via telefono sono un po' difficili, ma pare sia successo proprio questo. Basta leggere La Stampa, in prima pagina c'è il retroscena di Fabio Martini, racconta proprio che tutto è avvenuto, il cambiamento di passo di Angela Merkel, una maggiore flessibilità garantita a chi fa le riforme in una telefonata tra la stessa Merkel e Matteo Renzi. Ecco qui, prima pagina della Stampa, Angela disse: «Caro mister 40%, pare che lo chiami così, è il colloquio della svolta. I due se ne rendono conto, Angela Merkel corona la sua proverbiale simpatia per Matteo Renzi rivolgendosi a lui con parole scherzose. Caro mister 40%. È successo il 17 giugno, una settimana fa. Renzi è seduto nel 600° studio di Palazzo Chigi, la cancelliera nel suo luminoso ufficio al 7° piano della Bundeskanzler. Si chiamano, si parlano al telefono, affrontano senza ipocrisie tutte le questioni dirimenti, crescita e rigore, fiscal compact, nomine, parlano e su quasi tutto trovano un'intesa. La Merkel dà via libera definitiva al metodo Renzi, prima la politica, poi le nomine. Il fiscal compact non si tocca, ma se ne dovranno sfruttare tutte le flessibilità». Eccolo qui il racconto sulla Stampa, pagina 3, della telefonata della svolta. Caro mister 40%, questo è il titolo sulla Stampa. Renzi poi ha portato avanti e ha perorato la causa di Federica Mogherini, nostro ministro degli esteri, come possibile alto commissario per la politica estera europea. Angela Merkel, fa sapere la Stampa, annuisce, prende nota, non dice di no, col sottinteso che a Berlino la candidatura di Federica Mogherini viene considerata plausibile e condivisibile. E dunque Merkel apre sul patto di stabilità, Questo è il titolo un po' di tutti i giornali, la mette così il pagina 5, il Corriere della Sera, il Giornale è il quotidiano più duro a scrivere la Merkel scricchiola. Fa sapere Luigi Offeddu sul Corriere della Sera, pagina 5, almeno per questa occasione l'aggettivo storico non sembra esagerato, è una svolta storica che giunge da Berlino. Per la prima volta dall'inizio della grande crisi Angela Merkel, la cancelliera tedesca, madre della graticola chiamata Fiscal Compact e dell'austerità, fa sapere che i governi in maggiore difficoltà potranno avere più tempo per risanare le proprie casse, per rientrare dunque dal deficit e poter far contare di più i propri investimenti produttivi nel calcolo dello stesso deficit, cioè alleggerire alla fine quest'ultimo. La cancelliera cambia direzione perché sente anche lei preavvisi di una crisi? Nessuno può dirlo. Lei non sarà naturalmente l'unica a decidere, ma è come se parlasse a nome di quasi tutta l'Unione Europea, fa sapere il Corriere. E allora, a questo proposito, Matteo Renzi, che oggi sarà in Parlamento a spiegare i cardini del semestre di presidenza europeo dell'Italia, scrive Repubblica in un retroscena di Francesco Bei: eccolo qui il mio programma dei 1000 giorni, i punti sui quali Matteo Renzi punterà. Nella visione delle riforme interne sono le 5 grandi aree di intervento per cambiare l'Italia cambiando l'Europa: pubblica amministrazione, lavoro, scuola, sanità, giustizia. E poi continua Francesco Bei: le riforme come l'abolizione delle province non sono soltanto un fuoco di paglia iniziale. Io quando l'ho letto ho detto, beh, ma arriverà l'abolizione delle province? C'è già stata. No, non mi risulta. Comunque, siamo nella 60ª settimana decisiva per l'abolizione delle province, nonché per la riforma elettorale. In ogni caso, questi sono i punti su cui si concentreranno i 1000 giorni di Matteo Renzi. Certo, più flessibilità se si fanno le riforme. Su una riforma, quella della pubblica amministrazione, da giorni c'è un giallo. Nei giorni scorsi chi ci ha seguito sa che abbiamo raccontato gli articoli di Libero, del Fatto Quotidiano, del Fatto, per cui il Quirinale non firma questa riforma della pubblica amministrazione. Ora, il Corriere della Sera dice e decide di aprire su questo tema i rilievi del Quirinale sui decreti. Marzio Breda racconta, pagina 2 e 3, il perché il Quirinale, che segue passo passo la formazione di alcune riforme, perché i tecnici del Quirinale così fanno una sorta di sorveglianza, di moral suasion, cercano insomma di evitare aspetti di precaria costituzionalità, appianare in anticipo situazioni di conflitto potenziale, hanno trovato alcune cose per cui in questo decreto monstre, dilatato in 82 articoli, lungo 71 pagine, come è stato anticipato nei giorni scorsi, c'erano anche norme che spaziavano dal pubblico impiego alla magistratura, dall'anticorruzione, l'invalidità delle patologie croniche, le fonti rinnovabili fino alle mozzarelle di bufala. Che c'entra tutto questo col decreto della pubblica amministrazione? Ecco tutti i rilievi e i punti del colle per cui questo decretone va cambiato. Ed ecco perché la riforma della pubblica amministrazione rimane ancora in cantiere. In cantiere invece, ed è il giallo, è la questione dell'immunità della riforma del Senato. Ma chi la voleva questa immunità? Sapete che c'è questo giallo nel giallo. Il ministro Boschi dice noi non la volevamo. Ieri Anna Finocchiaro l'ha smentita dicendo sapeva tutto il governo. Ora la mediazione sarà in Senato. Secondo i proponenti, i relatori del testo, Anna Finocchiaro e Roberto Calderoli della Lega, che sarà nostro ospite alle 8:15, la proposta potrebbe essere questa: si valuti la immunità caso per caso e la valuti la Consulta, la Corte Costituzionale. Intanto Lorenzo Guerini, che è il vicepresidente del Partito Democratico, viene intervistato dal Messaggero a pagina 6 da Nino Bertoloni Meli e dice: se l'immunità diventa un ostacolo per le riforme, allora facciamone a meno. All'interno delle proposte di riforma del Senato, alcuni emendamenti dei relatori dei singoli proponevano, rispetto al testo del governo, di mantenere l'immunità anche per i nuovi senatori. Emendamenti anche dei 5 Stelle, perché l'articolo 6 del testo del governo circoscriveva l'immunità ai soli deputati e loro, a firma Buccarella, hanno proposto di sopprimere questo elemento. Quindi Eccolo qui, tra l'altro, Guerini lancia questa idea. Anche i 5 Stelle erano per l'immunità, tanto che la senatrice Elena Fattori, che viene indicata come colei che ha voluto anche lei un emendamento per ripristinare l'immunità al Senato, si deve difendere in un'intervista a Repubblica, pagina 9, dice: la mia immunità era per un Senato di eletti, ora si tolga a tutti. Elena Fattori dice: si mistifica la realtà. Noi vogliamo un Senato elettivo ed eliminare l'immunità. Ci battiamo, insomma, per entrambe le cose, ma bisogna farlo in due step. Nel disegno di riforma che ha presentato, entrambe le Camere sono elettive. Non ho fatto alcun emendamento, ho solo lasciato l'articolo costituzionale di riferimento così com'è. Non ho toccato l'immunità, ma modificato l'articolo di Renzi mantenendo elettivo il Senato. Sì, ma lei ha previsto l'immunità, è un boomerang mediatico, non le sembra? Le chiede Tommaso Ciriaco. No, non si poteva fare in altro modo. Infatti sono disposta a presentare un ulteriore emendamento che tolga l'immunità. Non ci si capisce nulla. Non ci si capisce nulla. Il Fatto Quotidiano intanto fa sapere, ecco, con Gianni Barbacetto e Antonella Mascali, ecco a pagina 5 del Fatto chi potremmo avere immuni o chi avremmo potuto avere immuni al Senato se ci fosse già state. I Franco Fiorito, le Nicole Minetti, le Francesca Barracciu, i Pazio Stefano, cioè fa un elenco di persone che sono o sindaci o ex sindaci o consiglieri regionali o ex consiglieri regionali che hanno avuto problemi con la giustizia e che nel nuovo Senato di consiglieri regionali potrebbero godere dell'immunità. Immuni, immuni, Mauro Meazza, immune a tutto, eccolo qua, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Sei immune alle tasse? In questa grande immunità, in questa grande immunità qualcuno pensa un poco a me, diceva il poeta, o non era così, non era così. No. Uguale, uguale. Mi sembrava che facesse così, ma tu parli poi anche di immunità più tardi, no? Sì, l'ho letto sul Sole 24 Ore oggi. Calderoli alle 8:15. E infatti così leggevo sul Sole 24 Ore, nella pagina dove segnaliamo tra le altre cose anche i programmi di Radio 24. Senti, hai messo i tuoi due urini allora nei fondi comuni? No, non perché, ancora. No, però strano, perché hanno avuto una crescita record e quindi evidentemente ci devono essere stati degli ingressi. No, c'è tutta un'analisi molto interessante sull'andamento del mese di maggio, quindi ti invito a leggere con attenzione poi la pagina di Isabella Della Valle, interessa anche appunto l'andamento dei vari settori, dei vari tipi di fondi comuni, sta nelle pagine non di norme e tributi, ma invece quelle che riguardano finanza e mercati naturalmente. In norme e tributi potrai trovare invece la pagina, è martedì, sul condominio. Sai che oramai è un appuntamento che noi mettiamo soprattutto per te, Alessandro. Beh, non certo. Forse per noi magari potremmo anche saltare qualche settimana, però poi sappiamo che tu ci tieni il martedì. Oggi parliamo di decreto ingiuntivo, se non paghi le spese del condominio, e non voglio aggiungere altro, insomma, perché non ti voglio mettere in difficoltà. No, no. Però guarda, magari la segnalerò a qualche... Vabbè, no, lasciamo stare, qualche... Stavo dicendo condomino, Ma chiediamo l'immunità, ecco, chiediamo l'immunità, esatto, anche per la spesa condominiale. Allora, in questa grande immunità noi parliamo però ancora di università, perché le classifiche, insomma, pubblicate ieri dopo la guida alla facoltà di settimana scorsa, insomma, ci sono state un po' di necessità, di precisazioni e quant'altro. Spieghiamo ancora, Gianni Trovati rispiega il meccanismo di formazione delle classifiche, e poi per chi vuole consultarle sono sempre a disposizione sul nostro sito, perciò possono andare a controllare. E poi c'è l'intervista al ministro Guidi, ma immagino che tu abbia colto la rilevanza dei 20 miliardi sbloccati per l'industria. Ecco, questa è infatti la notizia importante che il ministro annuncia. Questo è un annuncio importante che fa il ministro al nostro Carmine Fottina, quindi di questo siamo molto contenti. Bene, è il momento dell'immunità. È il momento del tuo pronostico. Veicolare. È il momento del tuo pronostico. No, ma ha già parlato Mick Jagger. Io non vorrei adesso mettermi in concorrenza con Mick Jagger, ci mancherebbe altro. Poi magari mi tocca pagare 8.500 euro per venire in trasmissione da te, e mi sembrerebbe davvero di buttare del denaro. Ecco, scusami. Assolutamente, assolutamente. Me la sono cavata? Sì. Vado con la mia. Vai. Ah, benissimo, meno male. Traffico. Ubi Milan, Mazza Traficat. Meazza, non mazza. Meazza Traficat, al limite, caro ascoltatore. Allora, per chiudere la pagina sul Senato, c'è anche un retroscena interessante di Libero, Elisa Calessi, a pagina 8 è: vabbè, non ci sarà questa riforma del Senato perché magari l'immunità di qui, di là, di su, di giù fa saltare tutto. Renzi ha, ha pronto il piano B, che è molto semplice, si va a votare. Piano B di Renzi sul Senato, se salta l'intesa al voto nel 2015. E questo per chiudere la pagina politica legata al Senato. Altra pagina politica invece legata alle inchieste, parla per la prima volta, lo ha fatto ieri in conferenza stampa alla Camera, Giancarlo Galan, accusato di avere intascato tangenti. La sua autodifesa va al contrattacco, scarica l'ex segretaria, come racconta il Corriere della Sera, pagina 20, tutta colpa di balle della Guardia di Finanza, magistrati tratti in inganno, investigatori che hanno fatto un lavoro modesto e scadente. La segretaria, o meglio la ex segretaria, che definisce la segretaria vestita più lussuosamente dell'emisfero boreale. Mi venne un dubbio quando un giorno la vidi sfoggiare un cappotto di Chanel da 16.000 euro. Così Giancarlo Galan dice, insomma, una serie di bugie nei miei confronti da parte delle tre persone che mi accusano. Non c'è una parola che abbia preso soldi. Ammette, ho paura di finire in carcere, non mi sento perseguitato né dai magistrati né da nessuno. È Galan che ha fatto una lunga autodifesa e sul quale si deve pronunciare, si dovrà pronunciare per la richiesta di arresto la Camera. Ovviamente l'ex segretaria Minutillo prende le distanze, dice non ho mai avuto un cappotto da 16.000 euro, ed eccolo qui, come succede nelle sintesi giornalistiche, questo del cappotto da 16.000 euro, statene certi, diventerà il tormentone di questa vicenda. Questa vicenda verrà ricordata anche per il cappotto misterioso di Chanel da 16.000 euro, anche perché sul fronte un po' più serio, al di là dei cappotti, c'è un'intercettazione, raccontano sia Repubblica che Il Fatto Quotidiano, un'intercettazione ambientale nei confronti del commercialista di Galan. Si tratta di Paolo Venuti, commercialista di fiducia di Galan, accusato di essere il prestanome dello stesso Galan per numerose operazioni all'estero. Ci sarebbe, appunto, raccontano Antonio Massari e Davide Vecchi a pagina 3 del Fatto Quotidiano, ma lo fa anche Repubblica, questa intercettazione ambientale in cui si parla di 1.800.000 euro all'estero, in particolare in Svizzera e in Croazia. E l'accusa è questa: secondo questa intercettazione per la procura, questi soldi sarebbero soldi all'estero di Galan, in cui appunto si discute in queste intercettazioni di che farne, visto che il commercialista viene considerato il prestanome dello stesso Galan. Comunque, ovviamente, ieri c'è stata questa difesa show, definita anche da Repubblica. Staremo a vedere come va a finire l'inchiesta, staremo a vedere anche le novità che sono state annunciate come linea dura dal ministro della cultura Franceschini su Pompei, dopo che abbiamo raccontato ieri l'ultimo scandalo. Domenica, per un'assemblea, un blocco sindacale, gli scavi di Pompei sono rimasti chiusi, dando un'immagine pessima dell'Italia nel mondo. Su questo non piove e su questo non ci sono dubbi. I Franceschini dice: mai più precetteremo chi sciopera in siti e musei. Anche questo viene detto tante volte, staremo a vedere. Il sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni sarà nostro ospite alle 8.30, viene intervistato Massimo Osanna dal Messaggero a pagina 9, è il sovrintendente agli scavi a Pompei che dice: le assemblee sono scandalose, fin dal mio insediamento ho dimostrato massima disponibilità a una politica trasparente della contrattazione, una discussione chiara con i lavoratori, ma di fronte a situazioni come quella di questi giorni mi sembra chiaro che si sta venendo meno agli accordi. Parla dei punti cruciali della trattativa sindacale, ma al di là delle trattative sindacali legittime assolutamente, rimane l'immagine davvero impietosa e scandalosa degli scavi di Pompei, chiusi. Mai più scioperi contro i turisti. Questo è anche il titolo della Stampa. Oh, c'è su tutti i giornali la notizia che ci si separa di meno. Per qualcuno è una buona notizia, per altri è semplicemente la conseguenza della crisi. Nino Materi, La Ricerca, pagina 17 del giornale. Ora, per merito, tra virgolette, della crisi, i matrimoni sono più solidi. C'è un rapporto Istat che dimostra come separarsi sia diventato un lusso per poche coppie. Da singoli il costo della vita aumenta del 66% rispetto a quando si stava insieme, quindi molte persone non si separano, ma non si separano perché non hanno i soldi per farlo. Questo almeno certifica l'Istat e trovate tutti i dettagli in un'intera pagina del giornale a pagina 17. Trovate purtroppo anche altri dettagli, come quelli che portano a dire che la carta costa parecchio, a pagina 16 di Libero, con tanto di foto di Belen Rodriguez e del suo compagno Stefano De Martino, sono stati gabbati con un pieno, anziché di benzina, di acqua. E allora sono ritratti con la loro macchina ferma sul carro attrezzi, non perdono il buon umore. Piccola disavventura per Belen Rodriguez e il suo compagno Stefano De Martino, che viaggiavano in Puglia verso le vacanze e sono rimasti a piedi perché un rifornimento malandrino di benzina li ha fregati con l'acqua. Ma quante vicissitudini avete voi, cari italiani? E per voi la carta costa se dovete finire sui giornali, eh? Dai, il giornale radio.